Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente del vertice tra il Premier Gentiloni e Angela Merkel a Berlino, vertice Italia e Germania, in cui purtroppo, dico, si sono toccati anche i temi che riguardano il terremoto, le scosse di oggi. Radio 24 la seguite con delle dirette fin da questa mattina. Quattro scosse a questo punto di magnitudo superiore al livello 5, 3 nella mattinata e uno dopo le 14. Stiamo cercando e continueremo a aggiornarvi nei nostri GR di capire anche lo stato non tanto delle scosse in questo momento, ma del disagio enorme, incredibile, che si sta generando per via della neve, delle precipitazioni di neve storiche a record, quindi anche dell'impossibilità di muoversi. Rimando su questo, sperando che non ci debbano essere breaking news nel corso della diretta, al GR delle 18 e poi quello più lungo delle 19. Per quello che riguarda invece i temi della giornata economico-finanziaria, dicevo, vertice Merkel-Gentiloni, da un lato vertice del summit bilaterale tra Vincenzo Boccia e l'omologo tedesco, quindi presidente della Confindustria tedesca Kempf, e tra l'altro anche i ministri Calenda e Gabriel, e quindi si è parlato di politica in senso alto e lato tra Merkel e Gentiloni, poi di politiche industriali, industria 4.0 invece negli incontri bilaterali, e ne parleremo in apertura. Dopodiché avremo anche un aggiornamento su Davos, dove insomma continua a far notizia il fatto che sia la Cina a porsi come alfiere della globalizzazione, e avremo anche un approfondimento su Mediaset. Perché? Perché a Londra è iniziato il roadshow di Mediaset con gli analisti finanziari, presentate le linee guida del gruppo al 2020, approvate ieri dal Consiglio di Amministrazione, e quindi un aumento della quota di raccolta pubblicitaria dal 37,4% a oltre il 39%, il tutto mentre la G-Com, che ritiene impraticabile, lo ricordo, per Vivendi avere sia il controllo di Telecom che eventualmente quello di Mediaset, l'istruttore si concluderà entro 120 giorni dal 21 dicembre scorso, prorogabile di altri 60 giorni. Il titolo è poco mosso, devo dire, più 0,14% Mediaset, come la maggior parte dei titoli in borsa. Milano fa meno 0,03, Parigi fa meno 0,3, Francoforte fa più 0,3, Londra è invariata, anzi 0,07, e solo a Londra poteva farlo, meno 0,06% il Dow Jones. Ferragamo più 2,30, Campari più 2, Tenaris più 2, Finecobank più 1,30, Unipol più 1 come A2A e Moncler più 1%. Il fronte opposto, Buzzi Unice meno 3,20, Generali meno 1,50 come Telecom Italia, l'1,1 lo cede Luxottica, lo 0,85% è il calo di Unipol SAI. Euro su dollaro a quota 1,0690, 1,07. Il petrolio, un po' di giorni che non lo diamo, comunque è sempre sopra i $50 al barile, ma non di molto. Oggi ha perso il 2% a $51,4 dollari al barile. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Come sempre a quest'ora, rapidamente le notizie in breve. Sì, parleremo anche del Monte dei Paschi, ma andiamo con ordine. Per quello che riguarda la Brexit, dopo l'approfondimento che abbiamo avuto anche noi ieri, dopo le parole di Theresa May su un'uscita netta, diciamo, non condizionabile e non negoziabile per alcuni versi della Gran Bretagna e dell'Unione Europea, oggi il colosso bancario che è anglo-asiatico, HSBC, ha detto che conferma che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea comporterà il trasferimento di attività equivalenti a 1000 posti di lavoro da Londra a Parigi. Lo ha riferito lo stesso amministratore delegato Stuart Gulliver ha escluso che vi possono essere ripensamenti dopo appunto che la May ha escluso qualunque forma di permanenza nel mercato unico. Ed Apple, sempre in Gran Bretagna, aumenterà del 25% i prezzi dei suoi oggetti negli App Store in seguito al deprezzamento della sterlina e anche delle app. La cosa interessante è perché una app che costava 0,79 sterline ora sarà venduta quasi a una sterlina, riflettendo la sostanziale parità con il dollaro da parte della sterlina. E sempre sulla Brexit, anche le aziende giapponesi sono pronte a rivedere le proprie strategie di business dopo il discorso di ieri di Theresa May. Il ministro degli esteri nipponico ha indicato come, in base ai dati di fine 2015, siano più di 1000 le aziende giapponesi che mantengono il quartier generale nel Regno Unito, perché finché la Gran Bretagna era nell'Unione Europea era considerato il principale hub per il continente europeo. Ora tutti, per esempio, i tre maggiori costruttori di auto, Toyota, Honda e Nissan, hanno gli stabilimenti nel Regno Unito, stanno cercando di capire come muoversi. Ripeto, una volta che sarà compiuto il percorso della Brexit, tu non potrai più avere il tuo quartier generale nel Regno Unito per essere presente dentro la normativa europea. Dovrai comunque, sarai comunque, è come se tu l'avessi in qualunque altro paese non dell'Unione Europea, per cui da lì la necessità di trasferire parte perlomeno delle attività in un paese realmente membro dell'Unione Europea. Allora, vedo già molti messaggi, adesso arriviamo anche al resto. Andiamo avanti con la parte invece di carattere internazionale. Oggi a Davos, allora, da un lato Joe Biden, vicepresidente uscente statunitense, ha chiesto: sono qui per chiedere azione, non possiamo aspettare gli altri. L'Unione Europea è stata definita da Biden una conquista inestimabile. E poi forse la critica, insomma, più dura nei confronti di Trump è arrivata oggi dal numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che ha detto: non vorrei commentare sulle politiche del presidente eletto. Poi, con un po' di ironia, ha aggiunto alla Lagarde: non abbiamo informazioni dettagliate sul programma, se c'è un programma, con risate in sala. E poi la Lagarde ha detto: serve più redistribuzione dei redditi, è tempo di ripensare le politiche di fronte alle proteste della classe media. Fa piacere che lo dica il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, perché ricordo a tutti, perché insomma un po' di memoria storica ce l'abbiamo, che fino a qualche tempo fa il Fondo Monetario Internazionale era l'alfiere, secondo alcuni affamatori di popoli, ma insomma era l'alfiere delle ricette di rigore quando uno Stato andava in difficoltà finanziaria. Cioè, adesso tutti hanno riscoperto l'importanza della classe media perché hanno preso paura dopo il voto Brexit, Trump e la presa, diciamo, la forza con cui stanno crescendo i partiti cosiddetti populisti. Non è che però la verginità non se la possa rifare andando in Svizzera perché c'è un po' di neve e siamo tutti più bianchi. Eh no, Fondo Monetario per anni, fino a pochissimo tempo fa, è sempre stato l'alfiere del massimo rigore nel caso di ristrutturazioni di debiti statali. Chi se ne fregava della classe media, chi se ne fregava delle fasce più deboli, l'importante era mettere i conti in ordine. Qualcuno si ricorda la ricetta disastrosa applicata all'Argentina a suo tempo? E è cambiata la posizione del Fondo Monetario Internazionale solo negli ultimi anni nei confronti della Grecia. Per esempio, nell'ultimo periodo aveva avuto un atteggiamento più possibilista rispetto alla Germania, ma insomma giusto negli ultimi tempi. Comunque sentiamo la Lagarde. It's really time to say what policies do we have in place? È davvero arrivato il tempo di chiedersi quali politiche sono in atto, cosa possiamo fare di più, quali misure stiamo prendendo per ridurre le disuguaglianze, quale sistema di protezione abbiamo messo in atto per le persone, quale sistema scolastico e di formazione abbiamo pensato per far fronte non necessariamente alla globalizzazione, ma alle tecnologie che cambieranno completamente il mondo del lavoro. Se i politici non capiscono i segnali adesso, non so quando lo faranno. Ma se guardano alle risposte negative che arrivano dagli elettori, allora sono costretti a pensarci e vedere cosa si può fare. e ci sono cose che possono essere fatte sul fronte dei conti pubblici, delle riforme strutturali e della politica monetaria. Il punto è che bisogna focalizzarsi su cosa ne può uscire per le persone da tutto questo. E probabilmente significa che ci vuole una maggiore redistribuzione dei redditi di quanta ce ne sia oggi. Allora, sempre sul tema, che adesso prende appunto banco, devo dire una cosa in maniera un po' cinica, però se l'effetto dei voti del 2016 e delle proiezioni di voto sul 2017 vanno alle elezioni Francia e Germania, non due piccoli paesi, è quello di aver posto al centro anche di Davos, cioè del club, secondo molti, dei globalizzatori, giusto o sbagliato che sia, il tema della classe media. Beh, uno potrebbe anche dire, ben venga, nel senso che non se n'era mai parlato fino all'altro ieri, il problema erano sempre i conti pubblici, era sempre, diciamo, altro, non il potere d'acquisto delle persone. Lo dico perché oggi a Davos è intervenuto, prima di poi di andare a Berlino, è intervenuto il ministro all'economia Padoan. Perché lo dico? Perché Padoan ha sostenuto che per spiegare l'insoddisfazione della classe media ci sono cose oggettive e anche un cambiamento di aspettative. La classe media è disillusa sul futuro, delusa sul lavoro per i figli e per la sicurezza del welfare, ed esprime questo dicendo no a tutto quello che i politici propongono. Noi tutto questo lo sappiamo e sappiamo che le soluzioni non sono facili. Il problema è che i no dominano il panorama politico, e questo è il segno dei tempi, e pone il problema della leadership che serve per avere una visione che dia soluzioni, che riporti ai cittadini a dare consenso alle politiche che vengono attuate. E ancora ha continuato il nostro ministro dell'economia: dobbiamo prendere il populismo seriamente, anche perché quelli che lo votano in molti casi sono brave persone che sono preoccupate sul futuro dei propri ragazzi, sull'educazione e sulla sicurezza, e vanno presi molto seriamente. E poi ha aggiunto Padoan: il problema dell'Europa è l'Europa, i nostri problemi nascono a Bruxelles e talvolta a Francoforte, questo è il problema. Dobbiamo rovesciare completamente le politiche, perché ora stanno dando i giusti argomenti per convincere che il populismo ha ragione. Questo durante un dibattito sulla classe media. Allora, ha ragione il ministro Padoan a dire che se uno dice no a tutto, se prevale il no e la contestazione, comunque è difficile fare politiche di medio e lungo termine. Verissimo. E questa è una riflessione che anche, diciamo, qualunque elettore dovrebbe porsi: voto solo per votare no o cerco anche delle soluzioni? Detto questo, però, il ministro dovrebbe riconoscere che la classe politica italiana e anche europea, in molti casi, pensiamo a quel genio di Cameron, ma non solo, in questi anni si è mossa solo sul brevissimo termine, cioè non ci sono stati impianti, diciamo, di modifiche strutturali in Europa, nei singoli governi nazionali, che poi sono stati bocciati per un eccesso di miopia, nel senso che c'è un voto di pancia, un no su tutto, a fronte di politiche però che erano molto legate ai sondaggi mese per mese, molto legate ad ottenere un consenso immediato, per cui, insomma, come dire, può capire se è nato prima l'uovo o la gallina. Anche la politica in questi anni non ha mai avuto un piano, una visione da dire vi porteremo lì fra 5 anni, dateci fiducia, questa è diciamo la roadmap, sono le tappe che faremo. La sensazione è sempre stata che ci si muovesse sui sondaggi, sul dare un riconoscimento immediato a uno piuttosto che all'altro. Comunque su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, a firma oggi di Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. Vedo molti commenti sul fatto che Padoan ha detto ci sono anche brave persone tra i populisti, insomma, nessuno aveva dubbi, e poi basta con questo populismo, insomma. La protesta non è sempre populismo, su. Comunque 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. E il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che siamo abituati a conoscere come pacato argomentatore dai toni bassi e dall'eloquio diplomatico, oggi ci ha stupito. A Davos ha davvero cambiato registro. Sentite cosa ha detto. Il problema dell'Europa è l'Europa. I nostri problemi nascono a Bruxelles e talvolta a Francoforte. Questo è il problema. Dobbiamo rovesciare completamente le politiche, perché ora si stanno dando i giusti argomenti per convincere che il populismo ha ragione. Come dargli torto? Lui sa bene, stando nella cabina di regia della politica economica, quanto siano complesse le risposte che si possono dare oggi alla crisi e quanto tempo richiedano per dispiegare tutti i loro effetti. Prendiamo le banche. La regolazione europea ha reso un Vietnam la gestione delle sofferenze per le banche italiane, facendo finta di nulla invece sulla valutazione di titoli tossici di cui sono piene le banche tedesche, francesi o spagnole. Prendiamo il debito. In Italia si è stabilizzato, è molto alto naturalmente, ma Francia e Germania lo hanno fatto crescere in pochi anni quasi del 50%, ma l'Europa continua a considerare questo dato come lo stigma di un paese potenzialmente insolvente, quando invece ha il più alto tasso di risparmio privato, cresciuto negli ultimi tempi tra l'altro, e ha le migliori performance nell'avanzo primario del suo bilancio pubblico. Insistere sugli obblighi contabili e dei parametri impedisce di dispiegare all'Italia politiche davvero espansive e funzionali al recupero della crescita. Certo, l'Italia deve fare molto di suo, a cominciare al miglioramento della produttività, che è il vero parametro stagnante indicativo di un paese che non riesce a ottimizzare i suoi investimenti. Però tutto questo richiede tempo e visione, appunto, le fibrillazioni della politica non aiutano e, per dirla ancora con il Padoan di oggi, ciò che accade con l'avvento del populismo globale richiede il ripensamento della leadership. Trump e i seguaci di Brexit hanno una visione, l'Europa purtroppo non ha una visione da offrire. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Oh, vi giuro, come sempre avviene, che non ascolto prima i 100 secondi e sono d'accordo in tutto e per tutto con Alberto Rioli, ma che questa sia una notizia. Avrei aggiunto così anche le politiche fiscali di questa Europa, non fiscali inteso come conti pubblici ma come fisco, come tassazioni, in cui i paesi hanno fatto a gara fino all'altro ieri, compreso il paese che si chiama Lussemburgo dell'ex premier attualmente presidente Juncker, a accaparrarsi le multinazionali per far pagare le tasse lì, con una Vietnam, una giungla anche da questo punto di vista sulla tassazione. Per cui poi d'accordissimo sul fronte banche, tuttora assistiamo allo scandalo per cui i derivati di Deutsche Bank non sono pesanti, le sofferenze alle imprese italiane sì. Comunque andiamo avanti, perché ci spostiamo infatti proprio a Berlino, dove saluto e ringrazio l'inviato del Sole 24 Ore Gerardo Pelosi. Buonasera Gerardo. Buonasera a voi. Allora, arriviamo adesso ai temi economici. Prima però faccio ascoltare l'intervento del Premier Gentiloni durante il vertice bilaterale, quando sono arrivate le notizie poco prima delle 11 delle scosse, delle prime scosse di nuovo in Umbria e Abruzzo, e anche, devo dire, l'intervento di Angela Merkel. Voglio cominciare con un pensiero rivolto, che abbiamo condiviso con Angela, alle popolazioni nelle aree colpite da scosse di terremoto molto serie questa mattina. Per fortuna al momento non risultano vittime, ma certamente il susseguirsi di scosse di questa entità è un fattore di allarme per le popolazioni già pesantemente colpite, ed è un fattore che impegna il governo. Io ho sentito ripetutamente la Protezione Civile, il Ministro della Difesa, abbiamo disposto un rafforzamento dell'invio dell'esercito nelle zone colpite dal terremoto. Stiamo monitorando minuto per minuto la situazione. Ebbene, anch'io desidero dire una parola sul fatto che naturalmente i nostri pensieri vanno innanzitutto dalle persone, alle cittadinanze che ancora una volta sono state colpite dal terremoto. Abbiamo offerto ancora una volta la nostra solidarietà, naturalmente in linea con la ricostruzione dell'ospedale ad Amatrice che avevamo già lanciato, ma qualsiasi tipo di aiuto siamo sicuramente disponibili. Sì, e poi su questo tema ne parleremo magari domani, anche sarà necessario far capire all'Europa che a questo punto non si tratta solo di misure una tantum emergenziali, qui c'è un'intera area europea, non italiana, cioè parliamo di Europa, allora è un pezzo di Europa che va ricostruita e che comunque resta a estremo rischio. Non è l'intervento in messa in sicurezza di una scossa, qui stiamo andando avanti da agosto, per cui insomma quando poi si vanno a chiedere i soldi è chiaro che oggi l'Europa ha già detto che qualunque investimento verrà scorporato dal deficit, però far capire che non è una cosa che si risolve tra 2016, 2017 e 2018. Comunque Gerardo Pelosi, l'incontro tra Angela Merkel e il premier Gentiloni. Devo dire che Gentiloni ha fatto gli auguri a Trump, ha detto che con l'Italia e la Germania c'è un'agenda condivisa, la Merkel ha detto che l'immigrazione è un problema di tutta l'Unione Europea, e poi Gentiloni ha detto: crediamo che la fase dell'austerità sia terminata, l'Italia non tornerà mai più ad essere un paese fiscalmente irresponsabile, fiscalmente in questo caso vuol dire sui conti pubblici, quel tempo ormai è finito anche se ancora ne paghiamo il prezzo, e non possiamo dare la sensazione che in un mare in tempesta l'Unione Europea si muova come un piccolo cabotaggio e adotti una sorta di flessibilità a corrente alternata. E poi il passaggio che ascoltiamo assieme, più, a mio avviso, più significativo, quando dice: prima si parlava di un'Europa a due velocità, cioè quella del centro-nord e quella del sud, adesso mi sembra che si parli di un'Europa a due rigidità, molto rigida su alcune cose, conti pubblici, meno rigida sui flussi migratori. Se c'è una questione sulla quale in un certo senso ci sentiamo in diritto di lamentarci, è il fatto che ogni tanto vediamo, prima dicevo, una flessibilità a corrente alternata. Noi abbiamo parlato per anni di Europa a due velocità, ogni tanto sembra di avere un'Europa a due rigidità, cioè molto rigida su alcune cose, troppo flessibile su altre. Io spero che ci sia, con la flessibilità dovuta, però un impegno a fare della questione migratoria davvero una scommessa comune di tutta l'Unione Europea. Non possono essere, non è solo l'Italia, la Germania ha avuto e continua ad avere un peso importantissimo sui temi migratori, non possono essere solo tre o quattro paesi a reggere un peso che dovrebbe riguardare l'intera Unione. Allora, Gerardo, da questo punto di vista è difficile non essere d'accordo con il Presidente del Consiglio, che c'è un'Europa che, quando Orban, quella specie di fascista che governa in Ungheria, tira su fili spinati e reti, va tutto bene. Non dico, uno può essere d'accordo o no, però non è che ognuno fa come cavolo vuole. E poi invece sui deficit siamo qua allo 0,2 di sforamento, allo 0,1 di scostamento. Gerardo. Diciamo che con un linguaggio molto più diplomatico Gentiloni ha ripetuto le cose che negli ultimi mesi abbiamo sentito dire come un mantra dall'ex premier Renzi, che usava toni assolutamente diversi, forse più conflittuali, però il concetto è sempre quello. Voi ci mettete sul banco degli imputati per dei decimali che noi non rispettiamo, adesso il deficit strutturale che sarebbe fuori di 3 miliardi, eccetera, quando invece noi abbiamo degli impegni, spendiamo dei soldi, abbiamo messo in campo delle risorse molto ingenti per affrontare un problema che non è solo italiano, perché noi difendiamo delle frontiere comuni dell'Europa. Sono entrati l'anno scorso 180.000 migranti attraverso il canale di Sicilia, e di questi 180 la gran parte, bisogna ricordarlo sempre, sono poi sparsi nel resto d'Europa, nel nord Europa soprattutto, i siriani per esempio in Svezia, in Germania, Belgio, Francia. La Germania, lo Stato, è un paese che ogni anno riceve, accoglie circa 1 milione di questi migranti, quindi l'ordine di grandezza è questo. La vera, come dire, posizione di anche di un certo risentimento della Merkel non è certo nei confronti dei paesi come l'Italia o del sud dell'Europa, ma nei confronti dei paesi dell'est, nelle quali lei ha esercitato, nei confronti dei quali ha esercitato un tutoraggio nei momenti in cui si sono sganciati dal blocco, ex blocco sovietico, e adesso che c'è da dimostrare e da ridare una certa solidarietà a quei migranti che vengono dal sud, loro si chiudono, perché è un problema di tutti i paesi di Visegrad. Tu ricordavi Orban, ma non è soltanto l'Ungheria di Orban. No, sono tutti, per carità, qualcuno Ceca, mi sta scrivendo, Slovacchia, ma come si permette di dire che Orban, io ho detto una specie, è stato detto democraticamente, ci mancherebbe, ma non è che lo dico io, cioè il suo partito che si chiama Unione Civica Ungherese, si definisce un partito populista, conservatore. Io dico semplicemente che ha un atteggiamento nei confronti dell'immigrazione molto fascista, specie di fascista. Insomma, l'ha vista solo io il filo spinato. Dopodiché, il problema non è dire blocchiamo le frontiere, uno può pensarla come vuole. C'è chi dice Orban è bravissimo e c'è chi dice Orban è sbaglia tutto. Il problema è un altro, se vogliamo far finta di capire, e cioè che non è ogni paese in questa Unione Europea non può fare come cavolo vuole, perché allora facciamo come cavolo vogliamo anche sui conti pubblici. T'ho interrotto, Gerardo, scusa. No, volevo dire che addirittura certi paesi che bussano alle porte dell'Europa, tipo per esempio la Serbia, e anche loro hanno eretto muri, adesso certo un po' noi il problema non c'è perché con l'accordo tra Unione Europea e Turchia la rotta balcanica si è raffreddata, si è andata stemperando e ormai tutto il flusso parte dalla Libia, la gran parte parte da lì. E come sappiamo, lo ha citato anche la Merkel nella conferenza stampa, una missione europea che si chiama EUNAVFOR Sofia, dal nome della bambina dei migranti nata su una nave tedesca, a guida italiana, comandata dall'ammiraglio Credendino, sta addestrando la guardia costiera libica, perché la gran parte dei morti che muore a poche centinaia di metri e comunque nelle acque territoriali libiche, quindi 5-6 mila morti l'anno sono morti lì. Quelli che noi vediamo poi dopo nel canale Sicilia o largo di Lampedusa è una piccolissima parte dei morti di migranti, diciamo, nel sud del Mediterraneo. E quindi si tratta di addestrare questa guardia costiera sulle motovedette che l'Italia gli darà, gli consegnerà probabilmente a marzo, per cercare di difendere quelle coste e quindi frenare alle partenze. Allora, senti, e poi Gerardo, fermati un attimo che ho pubblicità e meteo e poi voglio andare sulla Brexit, perché hanno parlato anche di Brexit, così faccio arrabbiare altri ascoltatori. Allora, do l'ultima risposta, perché uno mi ha scritto: domani la denuncio per diffamazione contro Orban. Va bene, va bene. Cosa fa l'ambasciatore? Ma il punto, ripeto, uno può essere di un rigore estremo sulle politiche migratorie, può essere di un... non è questo che mi interessa. Io vorrei capire perché è concesso ad alcuni paesi di fare quello che l'Europa ha detto che non va fatto, e mi riferisco alla ripartizione dei flussi migratori, che non se li può beccare solo l'Italia, e ha ragione Gentiloni, in parte la Germania, e invece se tu ti scosti dello 0,2% dal deficit, lì l'Europa si sveglia improvvisamente l'area euro. Allora, se le regole ci sono per tutti, se no l'Ungheria può chiedere di uscire dall'Europa, vota l'uscita dall'Europa e si mette tutti i muri, a ragione o a torto non mi interessa. Il problema è di principio, non è che la rigidità e le regole condivise ci sono solo sul deficit, poi non ci sono sulle politiche di tassazione, non ci sono sui flussi migratori, ok? Questo ho detto io. Poi uno può mettersi la foto di Orban a casa, la foto di Orban non a casa, questi sono cavoli suoi, e votare tutti i partiti, ci mancherebbe massimo rispetto, che nei singoli paesi europei sono per politiche dei flussi migratori più dure e di respingimenti e quant'altro. Ho solo detto che se l'Europa vuole esistere, le regole devono essere applicate a tutti. Meteo, pubblicità e poi torniamo appunto sull'Europa che non esiste più in Gran Bretagna, la Brexit. Focus Economia. Oddio, su Orban, va bene, va bene. Ci sono altri paesi che hanno fatto politiche di respingimento. Ripeto, è per l'ultima volta, è solo un problema di Orban, prendi i soldi dell'Europa, cioè anche da noi, sì, e come si riprende? Allora ti adegui alle regole europee. Non ti piace l'Unione Europea? Perfetto, non pigliare più i soldi, esci dall'Unione Europea, fai anche tu un bel referendum. Non è che puoi avere uovo, gallina e, diciamo, il sedere caldo, traduco un proverbio veneto, nella vita, o una o l'altra. Dopodiché, a me fa impazzire alcuni ascoltatori, poi vado avanti con Gerardo Pelosi, ormai tutti hanno la verità in mano. Uno mi scrive: guardi questo sito dove è tutto l'opposto di quello che voi raccontate con il vostro mainstream di pensiero, qui si dice che la Gran Bretagna sta andando meglio dell'Europa, del resto dell'Europa. Come? Già ci andava prima, dopo la Brexit, a me non risulta proprio su nessuna previsione economica, da nessuna parte. Però è bello che uno vede un sito e quella è la Bibbia e tutto il resto sono il mainstream dell'informazione falsa. Vabbè. Mamma mia. Sì, va bene, continua a scrivere. Allora, Gerardo, Veniamo alla Brexit, visto che parlavo di Gran Bretagna. Angela Merkel ha detto non passeremo certo i prossimi anni a perdere tempo sui negoziati, e spero che l'Europa non si occupi solo di trattative per l'uscita della Gran Bretagna. Il discorso di Theresa May ci ha fatto vedere come la Gran Bretagna ha imposto la questione, ma le trattative non sono ancora incominciate, cominceranno se l'articolo 50 sarà rispettato, cioè sarà ufficialmente presentata la richiesta di uscire dall'Unione Europea. E tutto questo sarà fatto naturalmente anche di comune accordo, in stretta cooperazione con gli ambienti economici, ma sicuramente non ho paura che non riusciremo a lavorare mano in mano, perché naturalmente la cosa fondamentale è che l'Europa continui a parlare con una voce sola, e sicuramente noi avremo dei contatti intensi che riusciranno a garantire questo. E su questo anche il premier Gentiloni, sempre sulla Brexit, credo che dopo il discorso di Theresa May adesso ci siano più contenuti per cercare di discutere per un'intesa. Io credo che il discorso di ieri di Theresa May abbia in un certo senso riempito di contenuti quello che finora era un titolo. Lei aveva sempre detto Brexit is Brexit, adesso abbiamo più chiaro che cosa nelle intenzioni del governo britannico significhi Brexit is Brexit. Penso che l'Unione Europea sia pronta a discutere con un atteggiamento, come è giusto, di solidarietà tra noi e di amicizia verso il Regno Unito. Sottolineo due cose. Primo, che mi fa molto piacere che Theresa May abbia confermato i suoi impegni sul piano politico, militare, di alleanza con noi a livello internazionale. E secondo, che le modalità e i tempi di questo negoziato sono scritti nei trattati. Sappiamo in che modo si attiva l'articolo 50 dei trattati, come si aprirà questa discussione e come andrà avanti. E su queste basi credo che si potrà raggiungere un'intesa. Allora, Gerardo, ti faccio concludere sull'aspetto appunto Brexit, poi ascolteremo anche il premier Gentiloni sulle regole, sulla Fiat Chrysler e le vicende tedesche e le banche. Dicevo, sulla Brexit mi sembra che tutti e due, al di là della Merkel che dice se non perdiamo troppo tempo, però insomma siano quasi soddisfatti del fatto che la Gran Bretagna abbia preso una posizione netta su questo. Sì, ma anche se i problemi sono quelli che conosciamo, cioè senza fare grandi giri di parole, penso che le cose che abbia detto Prodi, l'ex presidente della Commissione, il presidente del Consiglio Prodi, in un'intervista oggi, siano quelle vere, cioè quell'Europa che manca di leader, perché praticamente adesso la Brexit avrebbe bisogno di leader molto forti, perché anche l'uscita di un paese come il Regno Unito necessiterebbe di una leadership forte, così come erano forti Mitterrand e Kohl quando in sei mesi fu riunificata la Germania nel 89. Quindi adesso, anche siamo in un passaggio critico e fondamentale del futuro dell'Europa, anche la Brexit avrebbe bisogno di una leadership forte, e invece va a cadere in uno dei momenti di maggiore debolezza istituzionale e politica dell'Europa, con le elezioni in Olanda, in Francia, in Germania, quando tutti sono ripiegati sui problemi interni delle campagne elettorali interne, e quindi diciamo la prospettiva europea non è certamente la priorità delle classi politiche europee. Quindi questo è, diciamo, il primo che lì si giochi, come dicevamo anche ieri. Poi la capacità degli europei di dimostrare che ha ancora un senso questa Unione Europea è fuori discussione, perché in base a come tu andrai a trattare, se poi ognuno andrà in ordine sparso, la Francia tratterà il suo accordo con la Gran Bretagna, la Germania il suo, l'Italia, allora ti ripeto, andiamo sempre nel mainstream, come dice l'ascoltatore, di un'Unione Europea che serve solo a fare i calcoli ragionieristici. Ricordiamoci che Londra e gli inglesi sono dei negoziatori fortissimi, abilissimi e molto, molto precisi, soprattutto sulle questioni economiche e finanziarie. Vabbè, insomma. Noi forse abbiamo sottovalutato quello che era la Brexit, perché sulle politiche della concorrenza, sulle politiche del mercato interno, sulle politiche dell'armonizzazione fiscale si è perso troppo tempo ed è stato quello che ha poi non ha consentito alle classi politiche inglesi, anche quella che era contro la Brexit, di poter dare dei messaggi rassicuranti all'opinione pubblica inglese e di frenare quello che poi è stato il risultato. Vabbè, ma ormai c'è, è giusto che si vada avanti, certo. Ha fatto bene Theresa May a mettere chiarezza ieri dicendo non ci sarà nessuna tipo di trattativa sotto banco, noi vogliamo uscire in tutto e per tutto da qualunque forma di Unione Europea e metteremo anche dei vincoli ai flussi migratori dei cittadini anche con passaporto dell'Unione Europea, ai flussi alla circolazione, che era un tema di rimente, è importante perché questo può, adesso non hanno più scuse gli europei nel dire vediamo cosa farà la Gran Bretagna. E vedremo cosa farà Bruxelles adesso. Grazie Gerardo Peloso in collegamento da Berlino. Noi dopo il traffico restiamo a Berlino perché si è parlato anche di impresa e modelli di impresa negli incontri bilaterali tra il ministro Calenda e Sigmar Gabriel e i leader della Confindustria tedesca e italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. E indicare Italia e Germania devono avere, possono avere, hanno delle relazioni di particolare vicinanza in questo momento. Abbiamo un interscambio di 108 miliardi l'anno, giusto per dare la sensazione del volume dei nostri scambi commerciali. E soprattutto abbiamo principi e valori comuni. Su questo non c'è dubbio, abbiamo avuto delle polemiche in questi giorni, una in modo particolare, quella che ha riguardato le emissioni di alcuni veicoli di Fiat Chrysler, e io ho semplicemente ribadito in tutta amicizia alla cancelliera Merkel che queste sono questioni che sono regolate dalle leggi e le leggi attribuiscono alle singole autorità nazionali di omologazione il compito di fare questi esami che poi vengono recepiti dagli altri Stati membri. Dopodiché c'è anche una commissione in sede europea che valuterà gli eventuali problemi. Quindi noi decidiamo per quello che ci riguarda e siamo convinti che i tedeschi facciano altrettanto, e cioè decidano per quanto riguarda le loro questioni. Allora, così il premier Gentiloni è molto serio, è molto netto sulla vicenda Fiat Chrysler, ha ribadito quanto detto nei giorni scorsi. Nicoletta Picchio, inviata da Sole 24 Ore per gli incontri bilaterali invece tra imprese, quindi ministro Calenda e Gabriel, e anche il leader di Confindustria Boccia e della Confindustria tedesca, la BDI Kempf. Buonasera Nicoletta. Buonasera. Allora, il tema è stato che cosa? Trovare non dei modelli di sviluppo simili, ma ragionare su quello che è la manifattura. Italia e Germania sono le due principali manifatture d'Europa, con numeri diversissimi, ma sono le due principali. Quali punti di caduta vi sono stati, cioè punti simili, visto che però i modelli sono molto diversi, grande impresa tedesca e invece medie imprese e piccole imprese in Italia? C'è stata proprio una condivisione sulla necessità di rilanciare gli investimenti, soprattutto su Industria 4.0 e sul digitale. E in questo anche la Germania ha ammesso di essere abbastanza indietro come paese nelle piccole e medie imprese, quindi una situazione che un po' rispecchia anche la nostra, dove stiamo facendo proprio adesso questo sforzo per aumentare il grado di digitalizzazione del nostro sistema industriale. Gentiloni, il nostro Presidente del Consiglio, stamattina ha detto anche un'altra cosa, posso aggiungere, ha sottolineato l'importanza di questo dialogo a quattro per la prima volta tra la politica e la business community. Infatti, dopo una loro conferenza stampa in cancelleria, i due capi di governo sono venuti proprio dove si teneva la conferenza delle imprese, e quindi proprio c'è stato anche fisicamente, non che abbiano parlato, ma questo dialogo a quattro, e quindi condivisione della necessità di collaborazione tra le nazioni e tra i sistemi imprenditoriali. Come dicevi tu, i numeri sono molto forti, noi abbiamo dei rapporti storici, strutturali tra imprese italiane e imprese tedesche, con rapporti di partnership, con rapporti di fornitura, sì. Tant'è che appunto se cresce la Germania cresciamo anche noi, perché poi spostiamo il nostro principale esportatore è appunto la Germania. E quindi grande sfida sulla digitalizzazione. Speriamo con che venga le medie imprese che devono andare avanti su questo terreno. Speriamo che venga accolta dalle nostre piccole imprese e dalle grandi tedesche. È vero che noi siamo in molti casi anche siamo fornitori, non subfornitori di colossi tedeschi. Grazie anche a Nicoletta Picchio. Si è parlato anche di banche, ma su questo tema rimando a dopo il GR24. Parleremo anche del Monte dei Paschi, delle richieste della Consob alla Popolare di Vicenza dopo quella di Veneto Banca e del tema banche toccato nella bilaterale Italia-Germania. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. A chi continua a scrivermi sulla Brexit, guardi che la Gran Bretagna non è ancora uscita dall'Unione Europea, è ancora dentro. Vedremo l'effetto dopo. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa e poi della, sempre in tema di borsa, della presentazione del piano industriale di Mediaset avvenuta oggi a Londra. Allora, per quello che riguarda la borsa, al di là dell'indice più 0,32%, Parigi meno 0,13%, Francoforte più 0,50%, Londra più 0,40%, Dow Jones meno 0,20%, dicevo, al di là della borsa, oggi di banche si è parlato non solo nell'incontro di cui già raccontavamo tra Gentiloni e la Merkel, ma ci sono state anche dichiarazioni dei vertici del Monte dei Paschi di Siena e novità sui soldi che la Consob chiede alla Popolare di Vicenza. Partiamo da quest'ultima notizia. Dopo aver chiesto 4.600.000 euro come sanzione agli ex manager della Veneto Banca, oggi la Consob ha proposto una sanzione per 4.200.000 euro per il vecchio consiglio di amministrazione e il vecchio collegio sindacale della Popolare di Vicenza. Le motivazioni riguarderebbero violazioni in materia di rapporto di trasparenza banca-clientela, disciplina della MIFID, e la proposta si inserisce in un pacchetto di 6 possibili elementi sanzionabili. E questo è il fronte Popolari Venete. Poi c'è, dicevo, il fronte Monte dei Paschi. Allora, da questo punto di vista, il presidente Falciai in audizione al Senato ha detto che i depositi dei clienti non sono mai stati a rischio, è un dovere morale tentare tutto per tutto prima dell'aiuto dello Stato, e il piano dovrebbe arrivare a inizio febbraio e dovremo chiudere insomma, tutti i dettagli nelle prossime settimane. L'obiettivo comunque del piano è un'uscita veloce dello Stato dal capitale del Monte dei Paschi di Siena. E su questo sentiamo Morelli quando anche indica la necessità di avere come obiettivo di avere una cessione delle sofferenze in blocco, quindi tutte assieme. Noi procediamo in un ambito in cui le sofferenze del Monte dei Paschi devono essere eliminate dal bilancio, perché altrimenti la banca non riprende un percorso di redditività. Le autorizzazioni che c'erano state date dall'organo di vigilanza europeo, la BCE, erano per un'operazione di capitale di 5 miliardi a fronte di una cessione in blocco. L'obiettivo del management della banca è di proseguire su un percorso che prevede la cessione delle sofferenze in blocco. Ancora per quello che riguarda le dichiarazioni di Morelli, del numero uno del Monte dei Paschi, mi è stato delegato Marco Morelli, sempre in audizione al Senato, ha detto il vecchio piano prevedeva di ridurre gli sportelli di 500 in 3 anni, ridurre il personale di 2.500 unità. L'obiettivo comunque è che la banca possa ripartire senza alcuna penalizzazione della forza lavoro nelle sue varie articolazioni. Nel piano industriale che abbiamo presentato avevamo detto che l'obiettivo in 3 anni era ridurre di 500 il numero degli sportelli, quindi passare da 2.000 a 1.500, e ridurre il numero del personale di 2.450 unità attraverso l'accesso al fondo di solidarietà. Noi è evidente che nella trattativa che faremo con la direzione generale della Commissione partiremo sicuramente da questo da questa assunzione. Il nostro obiettivo è fare in modo che la banca possa ripartire senza alcuna penalizzazione della forza lavoro nelle sue varie articolazioni. Quindi questo è l'intento, questo è l'obiettivo che noi abbiamo, dopodiché noi presentiamo un piano e un intervento che a questo punto deve essere condiviso da chi ha il potere di poter dare delle indicazioni che magari divergeranno da questo nostro punto di partenza. E sempre su Monte dei Paschi, sempre l'amministratore delegato Morelli ha detto che il deflusso, che è stato molto importante nei depositi, si è completamente arrestato con gli ultimi giorni dell'anno e i primi giorni del mese. Ripeto, poi il presidente Monte dei Paschi Falciai ha detto: in nessuna circostanza i depositi dei nostri clienti sono mai stati a rischio. Possiamo far ascoltare anche questo passaggio di Falciai, grazie. L'attivazione della ricapitalizzazione precauzionale, la precautionary cap come si chiama in inglese, sia cosa ben diversa dalla risoluzione, anch'essa disciplinata dalla direttiva BRRD. La ricapitalizzazione precauzionale, che è quella a cui abbiamo noi chiesto di poter partecipare, si applica infatti unicamente a istituti solvibili che rispettano i requisiti di capitale della vigilanza e non deve essere destinata questa ricapitalizzazione a copertura delle perdite. Oltre al fatto, e qua ci tengo a sottolinearlo, a costituire una misura assolutamente temporanea. Il Monte rispetta tutti questi requisiti indicati. Nei primi 9 mesi del 2016 ha raggiunto un risultato operativo di quasi 1,5 miliardi di euro, quindi prima degli accantonamenti. Ha riscontrato un patrimonio netto di quasi 9 miliardi, 8,75 miliardi, e rispetta tutti i requisiti patrimoniali indicati dalla BCE con lo SREP, e in nessuna circostanza, e questo voglio sottolinearlo a gran voce, i depositi dei nostri clienti sono mai stati a rischio. La banca ha riscontrato un fabbisogno di capitale solo in esito a uno stress test, che simulava uno scenario avverso perdurante per ben 3 anni, senza che nell'esercizio potessero essere considerate adeguate azioni di contrasto agli avvenimenti negativi ipotizzati. Allora, Eleonora Micheli, Radio Colli Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Parliamo dopo di Mediaset, di Telecom, abbiamo un approfondimento apposito su questo perché i due titoli si muovono abbastanza, diciamo, collegati a Gcom permettendo, mettiamola così. Invece sulle banche, oggi la giornata vede in assoluto come miglior titolo Tenaris più 2,70, poi Ferragamo più 2,60, Campari più 2,30, Moncler più 1,90, Fineco più 1,60, come Unipol 1,5 lo guadagna Mediolanum, l'1,30 Snam e Saipem, l'1,17 Jux, Net-a-Porter, fronte opposto Buzzi Unice meno 3, Luxottica meno 1, Generali meno 0,80 e Telecom meno 0,80%. Banche, dicevo, abbastanza contrastate, ma spicca l'andamento del credito valtellinese più 15,80%. È tornata in pista l'ipotesi di acquisizione da parte della BPER, la Banca Popolare Emilia Romagna? Sì, visto che ieri il credito valtellinese ha annunciato di aver nominato due advisor, ossia Equita e un'altra società, per studiare appunto le nozze in vista, operazioni straordinarie in vista. Da lì sono partite tutta una serie di indiscrezioni e si ipotizza che possa essere in pista per acquistare il Creval la stessa BPER, che oggi è stata abbastanza debole ma sul finale è salita dello 0,37%. Tra l'altro va detto che BPER entro fine mese, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbe presentare un'offerta anche per Carife, l'ultima delle 4 good banks che dopo che le altre sono state rilevate da UBI nei giorni scorsi. Ancora invece, lasciando stare le banche, il caso più eclatante è quello del credito valtellinese, ma andiamo sul Saras, anche qui c'è notizia per quello che riguarda Saras in negativo, meno 4,60. Sì, meno 4,60 perché ieri in tarda serata e poi questa mattina Rosneft, il colosso russo controllato dal Cremlino, è uscito dal capitale. Ricordiamo che era entrato nel 2013 con una quota del 21%, poi aveva già ceduto oltre l'8% nel 2015, ma aveva promesso che avrebbe mantenuto il 12%. Invece poi alla fine ha deciso di uscire completamente dal capitale, le azioni sono state vendute a 1,5%. 53 euro a investitori istituzionali. Rosneft stessa ha spiegato che a seguito delle sanzioni contro la Russia non è possibile ovviamente implementare tutta una serie di progetti che dovevano essere messi in piedi con la società dei Moratti. Ovviamente i titoli hanno subito il contraccolpo appunto del piazzamento che è stato effettuato sul mercato, ma comunque poi hanno chiuso a 1,57 euro, ovvero un prezzo superiore a quello del collocamento, ricordiamo, di 1,53 euro. Ancora tra i titoli segnalo, visto che siamo già sui migliori e peggiori, anche Clabo meno 5,70, Industria Innovazione meno 4,80 e poi di Mail Group meno 4,50. Il fronte opposto vede Vita, società editoriale più 18, Sintesi più 17, appunto Credito Valtellinese più 15, Risanamento più 12,70%. Grazie anche a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi appunto ci occupiamo di Mediaset. Telecom oggi, come ricordavamo anche in precedenza, è debole perché, penso, il Sole 24 Ore di oggi si ipotizza uno scambio azionario tra Vivendi e Fininvest. Sappiamo che Vivendi è l'azionista di maggioranza relativa di Telecom al 24% ed è il secondo azionista con una minoranza di blocco, quasi il 30%, il 29,9% di Mediaset. La Agcom ha detto che non può mantenere le due posizioni, varie ipotesi allo studio, appunto tra cui quello dello scambio azionario tra Vivendi e Fininvest. Però oggi a Londra Mediaset ha presentato il piano industriale e ne parliamo, molto attesa chiaramente, per capire dove si andrà a muovere Mediaset da qua al 2020. Queste sono le linee guida del gruppo fino al 2020, dicevo, ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Andrea Biondi del Sole 24 Ore, dicevo, le linee guida per il gruppo Mediaset al 2020, 200 milioni di aumento di redditività della Pay TV, se ho ben capito, con Mediaset che dice che Premium potrebbe vivere anche senza il calcio, pronta a crescere nelle radio, nel settore radio, e accogliere opportunità per un ulteriore consolidamento della leadership. E poi il fronte, diciamo, della quota di raccolta pubblicitaria da qua al 2020. Andrea, sullo sfondo chiaramente la vicenda Vivendi. Sì, buonasera. In effetti, diciamo, la presentazione di queste linee guida di un piano che dovrebbe traguardare Mediaset al 2020 arrivano proprio, piombano nel contesto di uno scontro che man mano che si è andati avanti nel tempo si è fatto sempre più duro con Vivendi, come abbiamo detto, è oggi, come avevi ricordato, ha oggi il 29,9% dei diritti di voto. Sostanzialmente quindi ci si interroga sulle prossime mosse, potrebbero essere un'OPA o non un'OPA. Come dicono i giuristi, nelle more di tutto ciò, Mediaset presenta alla comunità finanziaria le linee guida di uno sviluppo che vede uno sviluppo di Mediaset senza Vivendi, un piano standalone. E questo piano standalone, la cosa che forse colpisce un po' di più è proprio il ruolo di Premium all'interno di questo piano, perché Premium è stato un po' il pomo della discordia. Dei problemi di Mediaset. Esattamente. Sicuramente è stata una scelta strategica che non ha portato benefici. Grandi investimenti. Volendo usare un eufemismo, non ha portato benefici. In perdita nei primi 9 mesi, la perdita di 116 milioni. Come dire, dal punto di vista strategico è stata una mossa non azzeccata. Ricordiamo che tramite Premium, o meglio per sostenere Premium, Mediaset si è sostanzialmente svenata per l'acquisto dei diritti per la trasmissione della Champions League. Da allora sono iniziati un po' i problemi, perché si è visto che la quota di nuovi clienti della Pay TV in Italia non è aumentata, che si tratti di Sky Rai o di Mediaset, più o meno si è intorno ai 7 milioni e non si va oltre quella quota. Quindi per rendere profittevoli questi investimenti sarebbe servito una risposta migliore del pubblico, che non c'è stata. Quindi che cosa è successo? Premium è stato un po' il pomo della discordia con Vivendi, c'era un accordo ad aprile, un accordo poi ripudiato a luglio, si arriva adesso. Adesso in questo piano che cosa si vede? Si vede che il Premium è abbastanza centrale, perché viene pensato un po' come una piattaforma aperta con i contenuti che possono essere messi a disposizione anche di altri operatori, vale a dire Mediaset ha l'esclusiva per dire su film e serie TV Warner e Universal. Nulla toglie che questi prodotti possano essere messi a disposizione di altri operatori che vogliano fare business con i contenuti audiovisivi, le telco per esempio, le compagnie telefoniche. Dall'altra parte Premium diventa anche una piattaforma aperta. Facciamo anche qui un esempio, un La7 per dire, o un qualsiasi altro canale, editore televisivo, voglia lanciarsi in un'offerta a pagamento, potrebbe sfruttare la piattaforma. Mi spingo in una mia congettura, un abbonamento a Premium costa un tot al mese, un tot più 1, 2 o 3 euro potrebbe garantire la visione della... E questo diciamo è il piano, giustamente, per far risalire la china a Premium. A Premium, esatto. A me è sembrato, ne sai molto di più tu che hai seguito tutto il giorno la presentazione, però... A vederla così un po' da fuori, la cosa singolare è sembrata, diciamo, un piano presentato nonostante questo convitato di pietra pesantissimo, quello di Vivendi. Cioè, la scelta volutamente di non parlare di Bolloré, nel senso che non si è mai neanche, non è uscita neanche a mezza, o forse non l'ho vista io, ma mezza indiscrezione sul... Guarda, cosa potremmo fare e continuare ad andare avanti con la linea. Noi possiamo andare avanti da soli, facciamo ripartire Premium. Ecco, non è, allora, può essere anche una tattica, chiaramente non vogliono dare spazio, margine alla presenza di Bolloré, però è una tattica, non è una strategia, nel senso che quando tu hai un socio al 29,9% che blocca qualunque assemblea straordinaria e tu hai il 38, cioè tu puoi anche far finta di nulla per un po', ma a un certo momento ce l'hai il dinosauro dentro casa, Credo che però non avrebbe potuto esserci un'alternativa a questa situazione, cioè la presentazione non poteva che essere una presentazione al netto della presenza, al netto dei piani di Vivendi. Vogliamo proprio pensare male? Può essere anche una presentazione fatta in questo momento per dimostrare al convitato di pietra, ecco, noi siamo capaci di far questo, certo, voi siete capaci di far meglio eventualmente, visto che potreste chiedere dei posti in consiglio, di sedervi e di contribuire alla governance. Però Mediaset a questo punto ha voluto mostrare un po' i muscoli davanti alla comunità finanziaria. Ma hai ragione nel dire che il messaggio è abbastanza chiaro, caro Vivendi, cara Vivendi o caro Bolloré, noi abbiamo tutto un percorso, un piano industriale, pensiamo di poter lanciare Premium anche senza i diritti per il calcio e via così, per cui non aspettiamo la tua presenza le tue intenzioni o che tu ci svegli cosa vuoi fare nel futuro per rafforzarci e anche mantenere la linea in qualche modo, mantenere le posizioni, linea di posizione. Certo, c'è da dire che questa questione di Vivendi ha ingessato il dibattito, ha ingessato anche lo sviluppo di Mediaset, ha catturato energie, noi per dire oggi abbiamo messo in evidenza come i produttori televisivi indipendenti che hanno delle commesse da Mediaset per legge, quest'anno sono molto preoccupati perché non hanno ancora alcuna visibilità, mentre, come dire, a metà dell'anno già si sa cosa visibilità succede, vuol dire non sanno ancora quali saranno le commesse sulla fiction che per legge Mediaset è tenuta a dare. Detto questo, però, c'è da dire che Mediaset ha anche degli altri fronti di sviluppo. Allora, Premium, per concludere, è stato detto che parteciperà alle aste per i diritti televisivi del calcio in primavera, e già questo è un punto di vista interessante, senza svenarsi con approccio opportunistico, ma è importante dirlo. Altra cosa, però, Mediaset ha anche delle possibilità di sviluppo in altri campi, quello pubblicitario per esempio. Quello pubblicitario c'è tutto, come dire, nel piano è spiegato tutta una possibilità legata agli accordi con gli operatori internazionali, agli accordi che anche con gli operatori internazionali possono permettere di sfruttare le nuove tecnologie, vale a dire il web, i video sul web. Mediaset è entrata da poco in una società che si chiama Studio 71, che appunto monetizza, se vogliamo semplificare, un po' tutto il traffico web dei video più visti, dei cosiddetti youtuber. Consideriamo un'altra cosa, Mediaset da quest'anno nella seconda parte dell'anno si lancerà anche nella cosiddetta pubblicità geolocalizzata, profilata. Quello che ha fatto un po' Sky con Addi Smart, cioè ha detto noi riusciamo a dare una pubblicità mirata sul cliente grazie ai decoder, Mediaset conta di farlo sulle TV connesse, quindi con un parco TV che già quest'anno dovrebbe essere a fine anno di 5 milioni, almeno a quanto si legge dalle cose. Quindi, come dire, ci sono tutta una serie di sviluppi. Le radio, Mediaset ha un polo radiofonico, 105, lo sappiamo bene. 105, 101, Virgin, insomma, ci sono delle prospettive di sviluppo. In qualche modo è stato fatto presente che questo sviluppo può andare avanti nelle more comunque di una situazione che rimane complicata. E quindi al netto di quello che poi capiterà, che oggettivamente non abbiamo capito nemmeno noi, nel senso si parla molto di scambio azionario. Però in questo momento il nodo, ripeto, è la G-Com, che si è presa 60 giorni dal 21 dicembre più 120 giorni dal 21 dicembre più 60 di proroga possibile per decidere. Stante così le cose, non ci sono grandi margini. In che senso? Non ci sono grandi margini che possa esserci uno scambio, una cosa. Insomma, la legislazione su questo è abbastanza chiara. Forse andranno trovate altre anche metodologie. Anche perché come tu fai altre... uno scambio, da come la capisco io, però adesso il tempo nostro è finito. Dimostri che hai un concerto. Esatto. Se hai concerto, la legge ti obbliga Vivendi e Fininvest a lanciare un'OPA su tutto il capitale residuo di Mediaset, perché il concerto per la legge italiana vale come se tu fossi lo stesso azionista. Grazie a voi. Anche a te, e da Sebastiano Barisoni l'appuntamento va a domani dalle 17 in poi. Intanto, come sempre, l'auguro di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.